Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa fase 2 sarà fondamentale e importante perché ci sta traghettando verso una sorta di relativo ritorno alla normalità della nostra vita quotidiana. Noi comunque siamo sempre discretamente preoccupati e guardiamo sempre quell'indice di trasmissione, quell'R con T che come un incubo deve restare sotto la cifra di 1. Lo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Agostino Miozzo oggi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che come sapete è consulente del governo dall'inizio di questa maledetta epidemia. Quindi ha detto bene la fase 2, ma siamo discretamente preoccupati, guardiamo come un incubo anche noi questo benedetto indice R con 0 che dà il criterio, l'indice di livello di contagiosità, no? Di ogni persona infetta, quante altre persone può contagiare, e dice deve restare sotto l'1 perché in altri paesi che hanno aperto un po' troppo velocemente le misure di contenimento ha causato una salita dell'indice sopra 1. Quindi, come sempre, la raccomandazione è quella di non pensare di rilassarsi, come vorremmo fare tutti, ma non si può, non è certamente questo il momento. E comunque ci occuperemo naturalmente di questa fase 2, dei vari passaggi. Adesso, ieri, ci siamo soffermati proprio poco dopo che il Presidente del Consiglio Conte ha illustrato il decreto rilancio, questo enorme provvedimento è stato varato ieri poco prima che iniziasse effetto notte, per cui abbiamo giusto dato le prime indicazioni, i primi passaggi anche della conferenza stampa di Conte. Stasera ci torniamo in un modo un po' più dettagliato e dopodiché ci occuperemo, fra le altre cose, anche della scuola, perché il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione rispetto all'ordinanza della ministra Azzolina ha fatto alcune raccomandazioni che non sono vincolanti, però sono piuttosto, diciamo, forti, incisive. Hanno chiesto di non dare i voti agli alunni delle elementari, ma i giudizi, perché con questo anno scolastico un po' particolare sembrano un pochino più, diciamo, pertinenti per i bambini. E poi sulla maturità, mentre la ministra Azzolina, abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha detto si può fare in sicurezza, non c'è neanche bisogno delle mascherine se le persone sono a distanza, invece il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ritiene che sarebbe più sicuro farlo proprio a distanza, nel senso online, in remoto, insomma, anche il colloquio della maturità. Comunque, tante altre cose da raccontarvi, come sempre all'inizio, prima la sintesi della giornata, poi i vostri commenti se volete sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Parleremo, vi dico anche solo questo, di mare, visto che tutti lo sognano, almeno tanta parte della gente, degli italiani e delle italiane. Vedremo un po' cosa succederà, ne parleremo per quanto riguarda la qualità, e poi il Twitter se volete durante il giorno, Roby con la Y netta bassa Giordano. I dati sul coronavirus in Italia: continua la discesa dei casi positivi, ma i morti sono 262 in un giorno. L'appello del Comitato Tecnico Scientifico: serve ancora molta prudenza. La prossima settimana ci sarà l'indagine su 150.000 italiani. Il decreto rilancio: ci sono 55 miliardi per famiglie e imprese, ma anche scuola e sanità. Fase 2, distanziamento sociale e viaggi limitati verso il 18 maggio in ordine sparso. Il Lazio riapre da lunedì ristoranti e bar. Scuola: il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione chiede di sostituire i voti alle elementari con i giudizi e ritiene che la maturità sia più sicura a distanza. Il coronavirus nel mondo: nuovo allarme dal Sud America, mentre in Europa l'epidemia si sposta verso est. Calcio: Serie A in campo al 99% per Malagò, mentre la federazione manda ispettori per il rispetto del protocollo. Mare: assegnate le bandiere blu, al primo posto la Liguria. Partiamo quindi, come sempre, dai dati forniti dalla Protezione Civile relativi all'epidemia di coronavirus in Italia. Scendono ancora di 2017 unità gli attualmente positivi al coronavirus, a quota quindi 76.440, ma si registrano 262 decessi per un totale di 31.368 finora in Italia dall'inizio della pandemia. I guariti ieri sono stati 2.747, quindi il numero complessivo finora è di 115.288, alleggerendo di 38 pazienti le terapie intensive. Quindi grande attesa per la seconda tappa della fase 2, quindi il prossimo 18 maggio, con movimenti personali e calendario delle riaperture. Distanziamento sociale, niente assembramenti, niente viaggi fuori regione se non per casi limitati, questi divieti che certamente restano dal 18 maggio, ma sono tante le riaperture anche se in ordine sparso tra una regione e l'altra. Più cauta la Lombardia, regione con il maggior numero di contagi, orientata a consentire la ripresa solo alle attività che saranno in regola con le linee guida nazionali, che, dice il vicepresidente Fabrizio Sala 24 mattina, ancora devono essere dettagliate e tradotte in un provvedimento cogente. Non sappiamo ancora se sarà un DPCM o un decreto legge. Se è un decreto legge vuol dire che va a normare ancora di più, quindi bisogna vedere anche poi cosa sta scritto, perché finora l'abbiamo sentito nelle conferenze e la popolazione l'ha sentito nelle conferenze stampa. Intanto il governatore Zingaretti fa sapere che nel Lazio i dati consentono di far riavviare da lunedì il consumo sul posto nei ristoranti e nei bar, far ripartire i negozi al dettaglio, i servizi alla persona e le attività all'aperto nei centri sportivi. In Sardegna invece già da oggi aperti i negozi e parrucchieri, mentre per l'estate si fa sempre più concreta l'ipotesi di ricorrere al passaporto sanitario per certificare la negatività al Covid-19. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ed è arrivato oggi l'appello del Comitato Tecnico Scientifico, consulente del governo dall'inizio della pandemia di Covid-19. Serve ancora molta prudenza. Sentiamo cosa ha detto in audizione, l'avete sentito in parte all'inizio, cosa ha detto in Parlamento Agostino Miozzo, coordinatore appunto del Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo anticipato molte decisioni di carattere politico che altri hanno preso e che ci siamo accorti poi hanno mutuato dalla nostra esperienza. Il confronto con la comunità internazionale è fondamentale, anche perché, come ripeto, parliamo di una patologia assolutamente nuova sulla quale è scritto molto poco e per la quale dobbiamo andare con grande prudenza ad affrontare, guardando per settimana. E ha parlato poi del famoso indice R0, l'indice di contagiosità sul quale vigilare in questa fase 2. Questa fase 2 sarà fondamentale e importante perché ci sta traghettando verso una sorta di relativo ritorno alla normalità della nostra vita quotidiana. Noi comunque siamo sempre discretamente preoccupati e guardiamo sempre quell'indice di trasmissione, quell'R con T, che come un incubo deve restare sotto la cifra di 1. È annunciato sempre Agostino Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico dalla prossima settimana, vi ricordate ne avevo parlato qui a Effetto Notte col segretario generale della Croce Rossa, ha annunciato un'indagine sierologica che coinvolgerà 150.000 persone in oltre 2.000 comuni in Italia per comprendere la distribuzione a livello nazionale del contagio. Dalla prossima settimana partirà questa indagine di sieroprevalenza che abbiamo elaborato con l'Istituto Superiore, con l'Istat, con i colleghi del Ministero della Salute, indagine importante perché ci darà un campione significativo della cittadinanza per comprendere qual è effettivamente la distribuzione a livello nazionale rispetto al coronavirus. E poi la prossima settimana quindi ci aggiorneremo anche su questo. Passiamo alla scuola. Oggi sono arrivate le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in risposta all'ordinanza del Ministero sull'esame di maturità. È indispensabile, ha detto il Consiglio Superiore, che venga emanato con urgenza un protocollo di sicurezza nazionale stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto negli esami di Stato e degli alunni. In sua assenza o nell'impossibilità di poterne applicare le prescrizioni è indispensabile prevedere che gli esami di maturità avvengano a distanza. Poi ne torneremo a parlare nel corso di questa puntata. E all'interno del decreto rilancio c'è anche un forte investimento nella scuola con l'intento di abbassare il rapporto tra numero di insegnanti e di allievi. 16.000 stabilizzazioni di precari e 16.000 nuove assunzioni per una spesa di 1,5 miliardi. Un altro 1,5 miliardi arriva per l'università e la ricerca, un investimento storico, lo definisce Ferruccio Resta, presidente del CRU, il microfono di Maria Pia Cecci. No, non è stata fatta questa logica, è stata scelta una logica di guardare davanti. Puntiamo sulla formazione, puntiamo su nuove matricole, puntiamo su nuovi ricercatori, puntiamo su ricerca. Importantissimo anche il finanziamento che è arrivato per le borse di studio, perché voi università temevate, insomma, che questa crisi economica portata dal Covid si riflettesse in meno iscrizioni o a maggiori abbandoni. A noi preoccupava il fatto che ci fossero famiglie che naturalmente colpite da una crisi economica importante che ci sarà, dovevano fare delle scelte, e tra le scelte a cui rinunciare era anche la formazione dei figli. Questo voleva dire veramente destinarci una fine, perché voleva dire non avere più gli strumenti per affrontare un futuro. E quindi queste misure di 300 milioni sotto varie forme, tra diritto allo studio, no tax area e digital divide, sono inserite, colgono esattamente quel tipo di esigenza. Poi ci sarà modo nel corso di questa puntata di ritornare su alcuni punti principali del decreto rilancio, tra cui per esempio il livello record di contributo dello Stato per la riqualificazione energetica, cioè il cosiddetto ecobonus. Intanto però spostiamoci all'estero, perché la pandemia rallenta ma continua il suo giro del mondo. L'epicentro, avverte l'OMS, si sta spostando. Con quasi 189.000 contagi e oltre 13.000 morti, il Brasile è il paese del Sud America più colpito. E siamo solo all'inizio, commenta l'ex ministro della salute brasiliano Mandetta, cacciato dal presidente Bolsonaro. L'epidemia, ha detto, non ha ancora raggiunto il sud. Nel mondo restano gli Stati Uniti più toccati, però 1.390.000 casi e 84.000 vittime, ma l'allarme che oggi ha lanciato l'OMS è per Russia, Bielorussia, Ucraina e Kazakistan, perché l'epicentro, dice, si sta spostando. Attualmente Mosca denuncia 250.000 casi e 2.000 vittime, numeri non credibili, hanno scritto Financial Times e New York Times, suscitando la reazione del Cremlino, che pretende una rettifica e minaccia la sospensione dell'accreditamento in Russia delle due testate. Scelte di ripartenza arrivano intanto dalla Grecia, che riapre lidi e spiagge da sabato, dalla Germania, che programma l'offerta aerea di Lufthansa in giugno, e dalla Francia, dove riapre il santuario di Lourdes, riparte il collegamento ferroviario con l'Italia e, dice il premier Philippe, le ferie di luglio e agosto si faranno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a proposito di quello che succede nel mondo, nel mercato più famoso dell'Indonesia, i pipistrelli sono ancora nel menù. Dopo il primo focolaio a Wuhan e la conferma del passaggio del virus dagli animali agli esseri umani, la Cina ha fermato la vendita di fauna selvatica, ma nell'arcipelago asiatico consumare questa carne è ancora possibile. A Tomohon, il mercato più famoso dell'Indonesia, si macellano pipistrelli, ratti, serpenti e lucertole catturati nelle foreste dell'isola di Sulawesi. Alcuni di questi venditori macellano anche i cani, molti dei quali sono animali domestici accalappiati nelle strade della città tra le proteste degli animalisti, ma gli esperti avvertono: questi posti sono una bomba a orologeria per altre epidemie. Poi invece il tema della Libia, dice il ministro Di Maio degli esteri, dice prosegue l'escalation sul terreno, c'è il rischio di uno scontro sempre più violento, resta valida l'analisi secondo cui nessuna delle due parti sia in grado di prevalere militarmente, ma il perseguimento della fragile tregua e del cessate il fuoco appare come un obiettivo ancora difficile da raggiungere. E arriva l'allarme rosso per l'eurozona, difficile, dice la Banca Centrale Europea, fare un calendario della ripresa. Una crisi che non ha precedenti in tempo di pace. L'emergenza coronavirus ha bloccato l'attività economica dell'eurozona. Difficile, avverte la BCE nel bollettino mensile, fare stime sui tempi necessari per la ripresa. Il prodotto interno lordo è in caduta libera. Nei primi tre mesi dell'anno è sceso a meno 3,8%. Una contrazione senza precedenti, sottolinea la Banca Centrale Europea. E nel secondo trimestre potrebbe andare anche peggio, perché gli effetti della crisi continueranno a farsi sentire. Tanto che il PIL dell'eurozona nell'anno in corso registrerà un calo tra meno 5 e meno 12%. Difficile fare la stima esatta, scrivono gli economisti di Francoforte, perché una volta rimosse gradualmente le misure di contenimento anticoronavirus, si verificherà una ripresa dell'attività economica, la cui rapidità e portata restano però fortemente incerte. Gli acquisti di debito con il programma per l'emergenza pandemica, assicura Francoforte, continueranno ad essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo e finché il consiglio direttivo non avrà ritenuto conclusa la fase critica legata al coronavirus. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore, Roma. Torniamo a parlare di Silvia Romano, in quarantena, e ringrazia e invita a non discutere per il suo caso. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio è passato. Lo scrive agli amici sul suo profilo Facebook Silvia Romano, rompendo un silenzio che durava da 18 mesi, il tempo del suo sequestro tra Kenya e Somalia, e da 3 giorni dal suo ritorno in Italia. Dalla quarantena della sua casa milanese, Silvia scrive di essere felice per essere tornata tra i suoi cari, ringrazia chi è stato loro vicino, gli amici, chi la conosce, ma anche gli sconosciuti, quelli, scrive, che mi hanno dedicato un pensiero. Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo, rivela Silvia, perché per me contava solo riabbracciare salvare le persone della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito. Proprio per quell'abbigliamento con il quale, rientrando in Italia, la 24enne non ha nascosto la sua conversione all'Islam, continuano gli insulti e le minacce sul web, al vaglio ora degli inquirenti che, risalendo ai mittenti, stanno valutando chi davvero potrebbe rappresentare una minaccia per la vita di Silvia. Si indaga anche sui cocci di bottiglia ritrovati sotto casa sua, attorno alla quale però vengono depositati di continuo anche fiori e messaggi solidali. Uno di questi, appeso, recita: «Quando l'ignoranza urla, l'intelligenza tace. Bentornata Silvia». Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pandemia di Covid-19 ha fatto sentire i suoi pesantissimi effetti anche in termini di prevenzione delle malattie oncologiche. In questi mesi, infatti, di lockdown, le nuove diagnosi di cancro, le biopsie si sono infatti ridotte al 52%, si sono registrati ritardi nel 64% degli interventi chirurgici, le visite sono diminuite del 57%. L'impatto dell'emergenza coronavirus, quindi sulla cura del cancro in Italia, è così fotografato da pazienti e società scientifiche a pochi giorni dalla quindicesima giornata del malato oncologico che si celebra domenica, senza dimenticare che nel 2019 in Italia sono stimati 317.000 nuovi casi di tumore. Da qui il forte appello di oncologi e malati: servono interventi urgenti perché i tumori non sono meno gravi del Covid-19 e ulteriori ritardi nella programmazione e assistenza rischiano di compromettere la possibilità di sopravvivenza. Lo sport: la percentuale che la Serie A riparte il 13 giugno, secondo me, è al 99%. L'ha annunciato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, spiegando che si sta facendo di tutto per mettere in condizione il sistema di ricominciare. E torneremo di nuovo su questo tema nel corso di questa puntata. Adesso un po' di musica. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto è fuga torno sempre. Per la prima volta in 64 anni l'Eurovision Song Contest si ferma, vietati gli assembramenti, confini chiusi, difficili gli spostamenti e la manifestazione musicale più vista al mondo. L'anno scorso, pensate, furono 182 milioni gli spettatori che seguirono la finale. Deve fare i conti col coronavirus che ha fermato tutto, edizione 2020 cancellata ma non archiviata. E così prende vita uno show televisivo che sotto il segno della musica vuole riunire l'Europa e omaggiare i 41 artisti in rappresentanza di altrettanti paesi che dovrebbero essere stati in gara. Quindi sabato 16 maggio, giorno previsto per la serata finale dell'evento a Rotterdam, con la proclamazione del vincitore, sarà trasmesso in Eurovisione Europe Shine Light, accendiamo la musica, a rappresentare l'Italia c'è Diodato con la canzone che ha conquistato il Festival di Sanremo e che state sentendo, Fai rumore. Proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non... Il cantautore Tarantino partecipa suonando al centro di un'arena di Verona completamente vuota e su cui si staglia il tricolore, un luogo iconico conosciuto naturalmente in tutto il mondo che rappresenta la musica. Fai rumore, dice Diodato, l'ho scritta partendo dalla mia intimità, un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità. Pensavo di aver raggiunto il picco emotivo al festival, ma poi la canzone in questo periodo di pandemia è stata cantata dai balconi, ha preso ancora più forza e significato, è diventata una sorta di inno di liberazione, racconta Diodato, fresco vincitore del Davide Donatello per il brano Che vita meravigliosa, per il film di Ferzan Özpetek, La Dea Fortuna. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, lo sapete, tutte le sere dalle 21 alle 22, da lunedì a venerdì con Roberta Giordano, pieni di notizie, di aggiornamenti, ricche di qualsiasi tipo di informazione che sia importante, che voi dobbiate sapere dall'Italia e dall'estero a fine giornata. Poi approfondimenti con gli ospiti e qualcuno anche tra gli ascoltatori, vi ricordo i numeri per commenti e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure dicevo SMS e WhatsApp al 349-238-6666, qualcuno si diverte anche a scrivere cosa sta facendo mentre ascolta Effetto Notte. Dice questo ascoltatore: stasera ho fatto un curry misto tra Gialfrezzi e Rogan Josh, l'ho chiamato Roberto Giordano, grazie, mi sento molto onorata. Adesso però passiamo a cose molto più prosaiche, perché torniamo a parlare del decreto rilancio, ieri varato dal Consiglio dei Ministri, quindi dal governo. Adesso dovrà passare naturalmente al vaglio del Parlamento, come ieri Conte ha precisato, ha ricordato, e lo ha illustrato in una conferenza stampa. Ieri vi ho fatto sentire vari passaggi, intanto vi farei sentire quello un po', diciamo, di introduzione. È un testo complesso, sì, sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio, quindi un lavoro incredibile. Quindi 55 miliardi per famiglie e imprese, sono stati tagliati da quello che è stato annunciato 4 miliardi di tasse. Conte parla di una premessa, Conte parla di questa premessa per concretizzare la ripresa dell'Italia, e poi c'è stato l'accordo tra governo e regioni per velocizzare il pagamento della benedetta cassa integrazione direttamente dall'INPS. Poi c'è stata l'intesa sulla regolarizzazione dei migranti che tanto aveva agitato il governo nelle settimane scorse, la ministra Bellanova che tanto lo ha voluto e che ieri si è commossa. Poi il ministro dell'economia Gualtieri che ha messo in evidenza invece l'arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese. Ovviamente non sono mancate le critiche, ma intanto saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Allora, ti faccio sentire anche qualche approfondimento dei nostri colleghi. Per esempio, a proposito del provvedimento, iniziamo dalle misure strettamente economiche a favore di persone e imprese. Tanti gli interventi, dal taglio dell'IRAP a quello dell'IMU per le attività turistiche, dalla cassa integrazione al bonus per i lavoratori autonomi. Sentiamo. Primo impegno del governo, rifinanziare e accelerare la cassa integrazione, compresa quella in deroga. Sarà l'INPS ad anticipare il 40% entro 15 giorni. Automatico il rinnovo dell'indennità per gli autonomi, per le famiglie, proroga di congedo parentale, bonus babysitter, sì al bonus colf e badanti e al reddito di emergenza da 400 a 800 euro. Colonna portante del decreto, i 15 miliardi per le imprese, 4 per il taglio della rata IRAP di giugno per le aziende fino a 250 milioni di fatturato e 6 come indennizzi a fondo perduto per le PMI con ricavi fino a 5 milioni e il calo di un terzo del fatturato ad aprile. Previsti sconti sulle bollette, credito d'imposta cedibile sugli affitti per le medie imprese, incentivi fiscali agli aumenti di capitale per le grandi, prestiti obbligazionari convertibili e aumenti di capitale con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Rinviate a metà settembre le scadenze fiscali, sospese plastiche, sugar tax, previsti sostegno all'export e fondi per la sanificazione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alberto, prima poi di parlare invece per esempio per le misure per il rilancio del turismo, insomma, che tutte le imprese legate al turismo sono molto preoccupate per questa stagione, per quello che anche che è passato questi due mesi e mezzo, per esempio le città d'arte, no, che erano abituate ad avere ben altra massa di turisti, e anche chi vorrebbe che l'estate fosse regolare, lo vorremmo tutti, diciamo, no, da chi lavora in queste realtà e anche di chi vorrebbe poterne usufruire. Alberto, però intanto vuoi fare un commento su queste misure per imprese e famiglie? Ma insomma, l'importante sarà capire i dettagli finali del testo, perché non, ricordiamoci che questo testo è comunque un altro dei famosi decreti che vengono licenziati dal Consiglio dei Ministri salvo intese, nel senso che ancora non gira un testo definitivo. Abbiamo lavorato su una bozza abbastanza precisa che è di 440 pagine, quindi una guerra e pace, diciamo così, e come tonnellaggio, e quindi molto complessa. Non hai letto prima complicata di andare a dormire ieri, Alberto, scusa? Vabbè. E quindi bisognerà vedere le stesure finali, perché il grande obiettivo che delle aspettative di tutti i soggetti beneficiari di questo giro di bonus di sostegno e di pronto soccorso, chiamiamolo così, è quello di avere immediatamente l'accesso ai finanziamenti promessi senza dover passare da pastoie burocratiche che già nella fase 1 e nei primi due decreti hanno inficiato di fatto il bazooka, il mini bazooka che il governo aveva già cominciato a mettere in campo con i prestiti garantiti dallo Stato. Ebbene, il problema sarà quello: a lume di naso, guardando le norme così come erano scritte, comunque ci sarà una fase autorizzativa di controllo, di calcolo delle quantità di perdite sul fatturato. Insomma, non sarà una passeggiata per chi poi deve affrontare l'iter per ottenere questo tipo di agevolazione. Alberto, però a questo proposito ieri Conte ci ha tenuto a sottolineare che ci sarà una sburocratizzazione per le erogazioni. Sentiamo questo passaggio. Ce l'abbiamo messa tutto, tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro, potenziando cassa integrazione e bonus per autonomi, facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivano ancora più speditamente di quanto è successo sino adesso, perché non ci è sfuggito anche, non ci sono sfuggiti i ritardi e stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti. Oggi l'ha sottolineato anche a Sky TG24 la ministra del lavoro Catalfo, per esempio, per la cassa integrazione. Sentiamo anche questo passaggio. Abbiamo studiato una nuova procedura e quindi entro 30 giorni il datore di lavoro potrà fare domanda direttamente all'INPS mandando i dati del lavoratore che mette in cassa integrazione e così l'INPS entro 15 giorni potrà erogare anche sul pregresso il 40% della quota da destinare. Ecco Alberto, quindi insomma dice i soldi ci sono, finora ci sono state varie strettoie in toppi eccetera, ma adesso dovrebbe essere tutto, diciamo così, non vorrei usare un aggettivo troppo azzardato, più snello. Ma sicuramente, perché lì c'era stato un grosso problema di mancanza di dialogo tra il software dell'INPS e quello delle regioni, che poi non ne hanno neanche uno comune, quindi si era creato un accavallamento, una farraginosità di dialogo istituzionale tra le burocrazie che ha bloccato di fatto poi le autorizzazioni, e quello sembrerebbe essere stato sanato perlomeno per la parte riguardante il 40%, che non dimentichiamo è il 40% però dell'ammontare complessivo, e quindi è auspicabile che questa cosa venga risolta, anche perché effettivamente poi le erogazioni non arrivavano, erano molte meno delle aspettative, che tra l'altro sono enormi, visto che poi hanno fatto litigare di fatto la ragioneria e il Ministero dell'Economia fino all'ultimo, perché di fatto la ragioneria aveva controstimato in molto, molto più alto il numero delle casse integrazioni previste in corso d'anno rispetto a quello che aveva preventivato il governo, quindi c'era stato un piccolo giallo sulle coperture finali. Però la burocrazia che citavo prima era quella legata in verità agli altri bonus, alle forme di ricapitalizzazione delle imprese, ai bonus che vengono dati appunto alle piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato che però devono dimostrare la perdita, alle altre all'abbattimento dell'IRAP fino a 250 milioni, che non si è capito bene l'imposta sulle attività produttive, con cui è scritta questo saldo a conto che potrebbe però essere ritornare in ballo nell'acconto 2020 alla fine. Cioè tu dici manca un po' di chiarezza. Sentiamo Salvini dall'opposizione per questo, il leader della Lega. Mi permetto di dire che essendo un decreto d'emergenza per affrontare l'emergenza, probabilmente qualche pagina in meno e qualche cavillo in meno e un po' di burocrazia in meno avrebbe aiutato chi ci guarda da casa e sta cercando di capire cosa c'è per l'affitto, cosa c'è per la scuola, cosa c'è per il mutuo. Quindi serve ancora un po' di chiarezza, Alberto? Indubbiamente ti dicevo, bisogna vedere come verrà, quale sarà la scrittura finale, ma indubbiamente poi sai, le norme le scrivono poi gli uffici dei ministeri e come dire, i grandi esponenti della burocrazia pubblica. In alcuni casi è indispensabile l'elemento del controllo delle autorizzazioni, ovviamente, però non sempre chi scrive la norma ha l'occhio vero alla semplificazione, che invece il politico accredita continuamente, come è normale, perché poi deve dialogare con l'opinione pubblica direttamente. Vedremo. Alberto, c'è Lino che scrive, Giordano, punto esclamativo, molto esortativo, dice un ristoratore, o imperativo, non lo so, un ristoratore che faceva una media di 300 coperti al giorno, non può dire che non può più pagare con due mesi di stop, l'IMU, l'IRAP, eccetera, eccetera. Chi lo racconta? Che cacciassero i soldi, fa l'esempio di Cipriani, famosissimo, di Venezia, dire che non può pagare le tasse a giugno. Che ne pensi, Alberto? Cosa rispondi a Lino? Lì è molto variabile, naturalmente, come in tutte le cose degli uomini, diciamo così, dell'economia. Ci sono situazioni ampiamente floride che sicuramente hanno messo fieno in cascina in termini di risparmio e quindi sono in grado di far fronte a emergenze di liquidità anche intaccando, per così dire, i patrimoni personali, per così dire. Ci sono altri invece che vivono e galleggiano sull'entrata settimana per settimana e con la quale fanno fronte poi all'affitto, alle tasse e tutto il resto, e non sono pochi, naturalmente sono quelli più piccoli, quelli che più utilizzano esercizi commerciali come se fosse lo stipendio di un lavoro dipendente, diciamo la verità, ecco, poco più, quindi ci sono situazioni molto diverse tra loro naturalmente. Alberto, invece vediamo per che cosa è previsto per il rilancio del turismo, sono state approvate diverse misure a favore del turismo, uno dei settori che, come sappiamo, appunto dicevo prima, hanno risentito di più dell'impatto dell'emergenza del coronavirus. un valore complessivo di 4 miliardi di euro per le misure inserite nel decreto che rilanciano il turismo in Italia. Solo per il bonus vacanze il governo ha stanziato 2,4 miliardi di euro di valore fino al massimo di 500 euro fruibile da tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro da utilizzare dal 1 luglio al 31 dicembre per trascorrere le ferie in Italia. E poi anche stop alla prima rata dell'IMU per le imprese alberghiere e stabilimenti balneari e anche agriturismi, crediti d'imposta per gli affitti, interventi a fondo perduto per le agenzie di viaggio, indennità per i lavoratori stagionali. Ma il turismo rimane uno dei settori che più hanno risentito dell'impatto dell'emergenza coronavirus, come spiega in particolare per le agenzie di viaggio Pier Ezzaia, consigliere delegato a Stoi Confindustria Viaggi. Corposo non tanto in realtà per le esigenze di un settore che sta collassando. Abbiamo un giro d'affari di 20 miliardi, si stima che ne verrà perso il 75% quest'anno, quindi stiamo dicendo che è un danno intorno ai 15-14 miliardi. Ci sarà anche un fondo da 50 milioni di euro per il 2020 per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato e un fondo per la promozione per il futuro del turismo nel nostro bel paese. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche Bocca, presidente di Federalberghi, ha detto per il rilancio del turismo ancora non basta. Che pensi in sintesi, Alberto? Beh, insomma, sì, non c'è dubbio, quello è il settore più penalizzato e più colpito da questo tsunami. Sono in crisi di liquidità, avrebbero bisogno di iniezioni di denaro fresco, immediato. Invece sono tutti sistemi che prevedono crediti d'imposta. Anche il bonus da 500 euro di fatto è strutturato con un 80% che finisce in capo alla fattura che fa l'albergatore. Quindi uno sconto che deve fare direttamente l'albergatore al cliente. E quindi ha meno liquidità, maggior ragione. E il 20% diventa tuo e diventa anche quello un abbattimento, una detrazione di imposta sull'IRPEF. Cioè non soldi che ti entrano in tasca così chiari, concreti, ma uno sconto, diciamo, fiscale. In questo senso. Invece, per quanto riguarda l'ecobonus, no? Si parla di svolta green, quindi di incentivi per anche i mezzi di trasporto sostenibili, le biciclette, i monopattini, eccetera, eccetera. Tu ci vedi sul monopattino, Alberto? Tu ogni tanto sporazzi? No, la verità no. ho sempre pensato che sia una cosa molto pericolosa, a dire il vero. Forse a Milano sì. Senti, quindi Alberto, che ci dici sull'ecobonus? Ti convince? Ma l'ecobonus, insomma, questo è un po' anche poi le ristrutturazioni, eccetera. Diciamo, questo delle bici, ok, questo dei monopattini mi sembra un po' una roba new age che prende un po' il vento della moda e va bene, ci sta. La cosa importante è l'ecobonus, quello del 110%, anche lì di credito d'imposta. È una svolta importante sulle ristrutturazioni, chi fa i lavori, no? Effettivamente, se li fa anticipare o da una banca, alla compagnia di assicurazione, quindi non tira fuori effettivamente un euro. Anche lì il dettaglio però è importante, nel senso che si tratta di grandissimi lavori, da 60-30.000 euro, cioè il cappotto termico, la rifacitura complessiva dell'impianto di riscaldamento con le pompe di calore, insomma è un modo per incentivare grandi lavori e effettivamente dare un colpo grosso al grande mondo dell'edilizia, delle costruzioni, tanto è vero che si aspettano un potenziale che può portare a lavori di circa 6 miliardi di euro. Quindi un elemento solo positivo che, questo, no? Solo è che... un elemento positivo per la domanda, per la crescita del PIL sicuramente, però ecco, forse è meno di come appare, nel senso che ci sono anche lì una serie di vincoli che non renderanno questa cosa facilissimamente fruibile proprio da tutti gli appartamenti, ecco, diciamo la verità. Sono più in gioco i condomini o le ville unifamiliari, ma su lavori di grandi entità, e soprattutto hanno un obiettivo di scavalcamento di due classi energetiche, quindi devono essere lavori molto, molto importanti. Senti, un ascoltatore dice, prima abbiamo parlato anche nella prima parte di Effetto Notte degli investimenti per la scuola, dice: cara Roberta, non per fare il bastian contrario, è sempre meglio che nulla, ma 16.000 precari assunti basteranno sì e no a coprire il turnover annuale nella scuola, altro che diminuire il rapporto docenti-alunni. La verità è che se si volesse davvero mettere in sicurezza le scuole occorrerebbe investire nella manutenzione straordinaria, negli edifici, eccetera. In parte ne avevamo parlato, per l'appunto, e poi oggi anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione chiedeva, fra le altre cose, anche ulteriori assunzioni per ridurre il numero divario tra insegnanti ed alunni. Poi comunque ne parleremo tra pochissimo di scuola. Invece, Alberto, siccome poi parlerò anche della qualità del mare, tu lo sogni il mare, tu non mi ricordo, sei più marinaro o più montanaro? Sono più montanaro in questa fase, diciamo, sono stato marino da ragazzo, ma adesso sono più montanaro. Mi piace più la riflessione, la dimensione spirituale. Mi piace più arrampicare, per la verità, mi piace l'alta montagna. Bravo, piccolo arrampicatore, va bene, grazie. Alberto Rioli, speriamo di riuscire ad arrampicarsi o a nuotare. Ciao Alberto, e adesso invece ci fermiamo per questa breve pausa, come sempre, di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Torno, rap come la folga. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, e con voi, se volete, la giusta conduttrice Roberta Giordano. E i messaggi attraverso pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, se li volete mandare attraverso SMS e WhatsApp. E poi gli ospiti, naturalmente, abbiamo parlato lungamente di vari punti, elementi di contenuti di questo enorme, il decretone. Prima si chiamava decreto monster, adesso lo chiamano decretone, il decreto rilancio, perché ha dentro veramente tantissimi elementi, argomenti, istanze, categorie, eccetera. Non ultima, per esempio, anche per quanto riguarda la sanità, per esempio infermieri di quartiere, si prevedono ambulanze speciali, più terapie intensive e assistenza a casa agli anziani. Questo dovrebbe, in questo modo cambia la sanità. Torniamo a parlare di scuola, anche se continuano i vostri messaggi, anche di chi dice, per esempio, cosa sta facendo in questo momento. Jacopo, cosa si fa durante Effetto Notte? Roberta, massaggio un'amica su un piede dolorante. Allora Jacopo, o un fisioterapista o un benefattore o un caro amico o un feticista, non lo so. Comunque Jacopo, tra l'altro gli amici e le amiche non si possono incontrare. Io non credo che tu la stia massaggiando fuori, su un muretto all'aperto. Guarda che fino al 18 gli amici non si possono vedere, quindi si è autodichiarato, autodenunciato Jacopo. Manderemo immediatamente qualcuno. Intanto però occupiamoci di scuola. Ne abbiamo parlato, dicevo, per quanto riguarda gli investimenti previsti da questo decreto rilancio, e quindi da un punto di vista economico ne abbiamo parlato sinora. Adesso invece torno sugli aspetti più organizzativo-sanitari, perché oggi il Consiglio Superiore dell'Istruzione, composto da 36 membri tra dirigenti scolastici, docenti, sindacalisti, esperti delle istituzioni pubbliche, ha espresso due raccomandazioni rispetto all'ordinanza di qualche giorno fa della ministra dell'Istruzione Azzolina. Chiede di togliere per quest'anno i voti agli alunni delle elementari, delle scuole elementari, e di sostituirli con i giudizi, al posto dei voti, i giudizi che meglio possono interpretare questa stagione scolastica a metà. E poi, per quanto riguarda l'esame di maturità, raccomanda fortemente il Consiglio Superiore dell'Istruzione che sia realizzato con un protocollo questo esame di sicurezza nazionale stringente, si legge dettagliato e prescrittivo, a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto. Altrimenti, dice sempre il Consiglio Superiore dell'Istruzione, meglio affidarsi, come già si fa con l'esame di terza media, a un colloquio in remoto a distanza. Ne voglio parlare con Mario Rusconi, che tutti ormai conoscete, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio. Buonasera Rusconi, ben ritrovato qui Effetto Notte. Buonasera a tutti voi. Quindi se la sicurezza di tutti non è garantita, dice il Consiglio Superiore dell'Istruzione, meglio esami di Stato a distanza. Che ne pensate da presidi, Rusconi? Stiamo aspettando ormai da un po' di tempo un protocollo di sicurezza che deve garantire le condizioni, diciamo, di salubrità delle scuole e soprattutto di sanità per quanto riguarda le persone, che si applicherà in prima battuta per gli esami di maturità e soprattutto sarà importante per settembre. Il Consiglio Superiore, molto saggiamente a mio parere, ha espresso un parere favorevole, ha chiesto alcune modifiche di natura tecnica che possiamo pure poi evidenziare, ma soprattutto ha detto che l'esame si potrà fare in presenza solamente se queste condizioni di sicurezza vengono garantite. La prima bozza del protocollo era piuttosto generica e tutti i sindacati, compresi appunto i sindacati dei presidi, l'associazione presidi, hanno chiesto che non fosse un'indicazione così generica, labile, eccetera. Le faccio un esempio. Sì. Dire, per esempio, che nel protocollo di sicurezza si deve verificare la salute delle persone che entrano a scuola o a fare gli esami di maturità è talmente vago che può esporre a difficoltà, a contenziosi anche giudiziari, insegnanti, presidi, persino i bidelli e così via. Dire invece, le faccio un esempio, non so se sarà poi così, che di ogni persona che entra nella scuola col termoscanner bisognerà prendere la febbre, questa è un'indicazione precisa che quindi ha delle responsabilità se qualcuno non lo fa. Allora noi chiediamo delle norme stringenti perché bisogna cercare di garantire una serie di diritti il diritto agli degli studenti all'istruzione, che è garantito anche costituzionalmente, ma direi ancora prima il diritto alla salute sia degli studenti che degli adulti che frequentano le scuole, insegnanti, bidelli, presidi e così via. Noi confidiamo che il protocollo di sicurezza che è in gestazione presso il Dipartimento del Ministero dell'Istruzione possa accogliere queste richieste, quindi il parere poi del Consiglio Superiore sarà favorevole all'ordinanza che il Ministro ha dato in bozza. Mi pare che inizino gli esami di maturità il 17 giugno, quindi c'è ancora un mesetto per accogliere queste richieste sulla sicurezza, Rusconi? Sì, il problema è che purtroppo diciamo adesso stanno venendo al pettine col coronavirus tutta una serie di inadempienze che si protraggono da decenni, direi. Quando Cittadinanza Attiva ci dice che il 60% del patrimonio edilizio delle scuole italiane è precedente agli anni 70, ci dice che era precedente al periodo in cui poi sono state emesse delle leggi che garantiscono una certa sicurezza. Sono poche le regioni che hanno istituti adeguati, la maggior parte degli istituti non sono adeguati. Mantenere queste condizioni di sicurezza sarà probabilmente abbastanza semplice, non voglio essere super ottimista per gli esami di maturità, sarà molto complesso per la ripresa a settembre, perché le aule sono piccole, perché spesso le scuole non hanno il doppio accesso, noi abbiamo degli edifici che niente meno risalgono al 500, basti pensare al Visconti di Roma o il mio liceo, il Pianone alla Ventino risale al 800. Che hanno il loro fascino, però per contro rischiano di essere fragili. Né si può prendere a picconate un liceo del 500 per metterlo in regola con le norme di sicurezza. Per cui è importante che ci sia, c'è tutto il tempo per poterlo fare, il Comitato Tecnico Scientifico al Ministero sta lavorando, veniamo consultati noi presidi, gli insegnanti e così via, però ci vuole molta buona volontà, molta saggezza e soprattutto, me lo faccia dire, molto poco burocrazia, che è quella che sta asfissiando questo paese, a cominciare dalle imprese, perché sono un cittadino e ci tengo che appunto il paese risorga, soprattutto perché le imprese abbiano fiato per ridare un po' di coraggio. E ci teniamo tutti naturalmente. Rusconi, mi dica un'ultima cosa, perché il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha anche espresso perplessità sulla legittimità costituzionale addirittura della misura che prevede la sostituzione dell'esame di Stato della terza media con gli scrutini del consiglio di classe. Vuol fare una battuta su questo proprio breve? Ma guardi, io non mi addentrerei su questi aspetti giuridico-formali, perché poi l'anticostituzionalità dovrebbe stabilirla la Corte Costituzionale, e voglio vedere un genitore il cui figlio sia stato promosso che va in giudizio e chiede che appunto la legge sia dichiarata incostituzionale attraverso la Corte. Insomma, va bene, qui dopo entriamo allora. Prego. Noi pensiamo che l'esame telematico, così come è stato pensato, sia la cosa migliore. Chiaramente abbiamo chiesto e ottenuto dal Ministro che i ragazzini possano e le ragazzine possano presentare la loro tesina entro la fine di giugno, perché entro l'8 di giugno era improponibile. Vediamo insomma di fare per il meglio per questi ragazzi, che sicuramente qualcuno avrà anche gioito del fatto di non andare a scuola, però si è creato sicuramente un disagio generale, un vuoto, persino tanti addirittura sentono che la scuola manca, non so se è un sentimento che si è mai provato in passato. Comunque io ieri ho visto in teleconferenza i miei ragazzi di liceo, sono ragazzi che hanno 16-17 anni, mi facevano tenerezza perché erano dei pulcini sperduti proprio, vedere così anche noi eccetera era per loro già un ristoro vediamo di fare il meglio per settembre, speriamo, intanto poi ci aggiorniamo. Grazie Presidente Mario Rusconi. Grazie a tutti voi. Grazie, buon lavoro e viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute. Eh sì, soprattutto già vissute, speriamo di riviverle ancora tra tutti, no? Quanta nostalgia e piuttosto struggente, questa atmosfera. Però, mentre ci si chiede se si potrà andare al mare, poi sapete, e con quali condizioni, abbiamo sentito anche le polemiche e le critiche in questi giorni degli imprenditori balneari, eccetera, insomma, sulle indicazioni dell'INAIL e tutto il resto. Comunque, arriva intanto l'assegnazione delle bandiere blu al nostro paese, ovvero il riconoscimento riconoscimento ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e anche il maggior rispetto per l'ambiente. Ad assegnare ogni anno questo riconoscimento è la ONG internazionale FEE, che è la Fondazione per l'Educazione Ambientale. Ne voglio parlare ovviamente con Claudio Mazza, che è presidente della Fondazione. Buonasera Mazza. Buonasera a voi. Ben ritrovato, parliamo di cose belle con lei. Intanto si basano i vostri rilievi sui prelievi dell'ARPA, poi i vostri riconoscimenti delle agenzie ambientali delle regioni. Ci sono 195 comuni italiani che le hanno ottenute quest'anno, nel 2020, le bandiere blu, 12 in più rispetto all'anno scorso. La classifica è dominata dalla Liguria, Mazza, vero? Sì, ormai sono diversi anni che la Liguria continua a crescere, ma devo dire che sta crescendo in modo omogeneo tutta l'Italia su questo. Mi sembra significativo, per dire proprio il fatto che negli ultimi tre anni sta molto crescendo, si stanno incrementando le località del sud del paese. Allora, proseguo proprio brevemente fino al quinto posto la classifica. Segue secondo posto la Toscana con 20 località, poi la Campania al terzo posto con 19 bandiere, con 15 Marche e Puglia al quarto posto, il quinto posto la Sardegna. Anche se devo dire, Mazza, a volte siccome si pensa quasi esclusivamente, no, nell'immaginario alla qualità del mare, la trasparenza eccetera, a volte si pensa come mai una Sardegna con il suo mare magnifico è al quinto posto, magari dopo altre regioni, no? Invece il criterio è anche il rispetto ambientale? Diciamo che la qualità delle acque è il primo paletto di accesso, che deve essere classificata eccellente negli ultimi quattro anni, al di là della trasparenza. Ma diciamo sarebbe riduttivo parlare solo di qualità delle acque di balneazione, parliamo di gestione del territorio. Anche perché la qualità del mare è strettamente correlata con la gestione del territorio, ma parliamo di depurazione, parliamo di sicurezza dei bagnanti, gestione dei rifiuti, accessibilità e tutto quelli che sono gli aspetti gestionali del territorio in termini di iniziative per la sostenibilità. Mazza, mi dico una cosa, ma il fatto che siano cresciuti i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno le bandiere blu non è magari anche dovuto al lockdown, al fatto che industrie e varie attività erano ferme? No, no, direi che a parte il fatto che i comuni che ottengono la bandiera blu iniziano un percorso che ormai è sempre di qualche anno, perché bandiera blu, al di là dell'ottenimento, è prima di tutto un percorso di crescita impostato al miglioramento continuo. Quindi ogni anno noi chiediamo ai comuni di migliorare le proprie performance ambientali, magari una politica di piccoli passi, ma cose molto concrete che alla fine determinano il cambiamento. Quindi è una crescita costante, il trend è sempre stato positivo. Quindi quelli che ottengono la bandiera blu alla fine è la punta dell'iceberg, ma ci sono tante comunità a livello locale che stanno lavorando in questa direzione. Stavo guardando ancora la classifica. Lei diceva che il sud sta crescendo comunque, no? Al di là della Liguria e la Toscana che sono le prime due, poi al terzo posto effettivamente c'è la Campania, Mazza. Sì, la Campania con 14, poi la Sardegna e la Calabria. Io devo dire che quest'anno, per dire, su 12 località che sono entrate, 7 sono nel sud del paese, cioè comincia a esserci un grande lavoro anche nelle regioni del sud su questo. Perché c'è più consapevolezza e quindi il capire che effettivamente è per se stessi prima di tutto, no? Il rispetto dell'ambiente, le diceva anche il mettere a punto nel modo giusto i depuratori eccetera, ma anche ovviamente poi per il turismo che ripaga, al di là che in quest'anno sia una situazione particolare, no? La bandiera blu è alla fine una crescita della qualità della vita, prima di tutto dei cittadini. E poi dove stanno bene i cittadini, stanno bene anche i turisti, che alla fine sono dei cittadini temporanei. Quest'anno poi sì, ha un valore maggiore, c'era una grande attesa da parte dei comuni e degli operatori sull'assegnazione delle bandiere blu, perché quest'anno sono le bandiere della ripresa, del rilancio, cioè è una chance che alla fine nei comuni, negli operatori vogliono e forse non possono perdere. vuole prima, adesso mancano proprio pochi secondi, non so, citare una o due località che quest'anno hanno meritato rispetto, non so, agli anni passati, che si sono guadagnate la bandiera blu? Ma io credo per noi tutte le località che attengono la bandiera blu crescono nello stesso modo. Quindi è significativo il fatto, ecco, ripeto, la crescita continua delle località del sud, e che oltre 11 località marine c'è anche una nuova località sul lago in Piemonte, sul lago d'Orta, a Gozzano, che quindi va a fine a essere anche una delle 18 oramai località che ci sono anche sui laghi. Grazie Claudio Mazza, presidente Fondazione per l'Educazione Ambientale Bandiere Blu, la ringrazio. Grazie Mazza, e speriamo di poterci godere tutta questa bellezza, visto che anche insomma si impegna per migliorare man mano e per darci sempre qualcosa di migliore. Grazie, speriamo. Beh, appunto di poter appunto godere del mare, dei laghi, insomma al di là dei gusti di ognuno. Grazie, ci risentiamo brevemente alle 22:00.